devi compagno, se no t'ammazzerò. Non m'ammazza compagno, che adesso beverò. Mentre il compagno beve la canteremo, la canteremo. Mentre il compagno beve la canteremo, la rillerà. La la la la, la canzone che ammazza li preti. La la la la, la, la, la. Savona che preghi e frai la la la la la la la la la, la canzona che ammazza i preghi la la la la la la, mazzavona che preghi e fra e fra e fra e fra e fra. Fight it, I told you to see my face. Never be reminded that for me it is.